nuovo giorno in arrivo. Un nuovo giorno in arrivo. Lungo strade dissestate è in arrivo. Su un vecchio carro dalle fragili ruote è in arrivo. E il vento caldo che soffia l'estate, col sole che cresce lento. Amore, non aver paura, svanirà ogni dolore. Niente più prove da affrontare. Lungo la strada maestra è in arrivo. Torrente tortuoso è qui, è in arrivo. Sopra la ferrovia è in arrivo. Guardami negli occhi. Non sono più un ragazzo mai. Faccio fatica a parlarti. Serpenti è in arrivo, sui muri scritti dagli amanti è in arrivo, sorvola ponti e città è in arrivo, nelle tue mani, tra le mie.